A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Di lui resta solo un'unica vecchia foto, ancora con i Ray-Ban a gocce e un identikit artificiale di come sarebbe oggi. Ma di lui resta soprattutto il peso del suo nome, la rete enorme dei suoi affari, lo spessore dei suoi segreti e la leggenda che in 20 anni di latitanza ha costruito intorno a sé, ma che forse non riuscirà più a lungo a coprirlo. Sempre più solo, sempre più in fuga, Matteo Messina Denaro, l'ultimo superboss ancora in libertà. La terra intorno a lui, picciotto di Castelvetrano, nel Trapanese, è arrivato ai vertici di Cosa Nostra, è sempre più bruciata, ora che pure i suoi familiari più stretti, a cominciare dalla sorella, sono stati catturati. L'ultima traccia del boss, che ama la bella vita e comunica solo coi pizzini, è una richiesta urgente e recente di 8.000 euro. Uno dei mafiosi più pericolosi e più ricchi, pure secondo la rivista Forbes, è ora forse in difficoltà economiche dopo le tante confische subite? Anche questo fa considerare più vicina la sua cattura? All'ottimismo di molti contrappone la sua prudenza Teresa Principato, il procuratore aggiunto della DDA di Palermo, che coordina la caccia al super latitante, passata pure attraverso gli ultimi 30 arresti. Abbiamo realizzato nell'arco di 3 anni 3 operazioni mirate alla cattura del latitante, anche centri in cui il latitante ha interessi molto forti. Le altre operazioni, che hanno colpito più o meno 70 persone, sono servite naturalmente a restringere sempre più il cerchio intorno al latitante e hanno avuto il preciso scopo di fare terra bruciata intorno a lui, togliendogli la linfa vitale costituita dai suoi referenti e togliendogli soprattutto il denaro costituito dalle sue numerosissime imprese. Basta dire che solo per Agrigoli, Todare dei vari Despar, insieme certo. A Matteo Messina Denaro, sono stati confiscati 780 milioni. Quindi in modo definitivo ci arriviamo a questo, perché questo è anche un aspetto importante di Matteo Messina Denaro, di questo ultimo superboss, che è quello della sua amplissima rete imprenditoriale che lo ha trasformato anche in uno dei mafiosi, oltre che più pericolosi, anche più ricchi. Giustamente lei ricordava come questa sia soltanto l'ultima di una serie di operazioni fatte. L'ultima di una serie di operazioni che è arrivata un po' più al cuore, diciamo, del latitante, perché ha consentito di mettere dentro le persone sulle quali lui più contava, ormai il nipote Francesco Tadauro, figlio della sorella Rosalia, era lanciato nel prenderne il posto. Adesso è stata arrestata anche la sorella Patrizia, un vero e proprio boss. Esatto, dire che era la sua interfaccia col mondo di fuori, anche per la riscossione delle estorsioni e per il controllo anche di molti affari. La Patrizia le estorsioni proprio le metteva in atto, le faceva lei stessa le estorsioni, sempre usufruendo del suo cognome, del fatto di essere sorella di, si metteva con più facilità di altri in contatto col fratello, anche per risolvere questioni essenziali per la sussistenza dell'organizzazione, parte attiva nella sussistenza dell'organizzazione stessa. Mi fa ricordare un nome di un'altra donna che aveva preso in mano proprio anche la gestione concreta di un mandamento, quando i fratelli in quel caso erano chi latitante e chi arrestato, che era la Giusi Vitale. La Giusi Vitale, sì, infatti, ma molte donne che hanno questa capacità di grande spregiudicatezza, che sono vissute in ambienti mafiosi da sempre. Ricordiamo che la famiglia Messina Denaro ha tradizioni mafiose di molto remote e è cresciuta in un ambiente mafioso, è pienamente capace, in assenza degli uomini di famiglia, di prenderne a pieno titolo il posto e di sostituirli. La sorella innanzitutto, quindi, che utilizzava il suo stesso cognome, quindi Messina Denaro, sì, ma sì. Anche gli altri utilizzavano proprio la forza. Altri sono cugini, sono cognati e sono le persone che si occupavano in prima battuta

come mai riesce ancora a sfuggire alla cattura? Innanzitutto un latitante particolarmente abile, evidentemente dalla lunga latitanza del padre con il quale ha trascorso un lungo periodo insieme, ha acquisito un po' tutti i segreti. Sa che qualsiasi persona sia in odore di controlli da parte degli organi inquirenti, qualsiasi persona deve essere allontanata, è capace di cambiare strada per anni e di intessere altre reti, sicuro il consenso sociale, ed è su questo che noi dobbiamo puntare, cioè che ci sia qualcuno che in qualche modo collabori. Il che non è semplice, perché siamo a Trapani. Se in Sicilia lo Stato non è visto come amico, nel trapanese, che è una realtà ancora più complessa, dove massoneria e mafia si confondono magmaticamente, lo Stato è ancora più lontano, è ancora più nemico, per cui chi riesce per tanto tempo a farla franca gode di una generalizzata ammirazione. Ama i viaggi e le belle donne, ama il lusso e riconosce gli affari, dai supermercati all'eolico, dal turismo all'edilizia. La latitanza di Matteo Messina Denaro è più spericolata rispetto a quella degli ultimi padrini, ma come quelli può contare su una rete ampia, anche istituzionale, di coperture. La stessa che l'ha fatto sfuggire più volte in questi anni alla cattura, o un ruolo in questi ritardi l'hanno avuto pure le tensioni tra le varie forze in campo, tante per trovare l'ultima grande primula rossa di Cosa Nostra, da cui ripartiamo nella seconda parte di A Ciascuno il Suo. A Ciascuno il Suo. Convulsa instabilità sia sotto il profilo organizzativo che gestionale. Se Cosa Nostra è in un momento di difficoltà, come riporta anche la recente relazione della Direzione Investigativa Antimafia, un punto resta fermo negli equilibri dei boss: il potere indiscusso di Matteo Messina Denaro, l'ultimo superboss ancora fuori dal carcere, l'invisibile, Diabolic, l'ultimo della stagione delle stragi e delle trattative tuttora in libertà. Più volte le forze dell'ordine gli sono arrivati vicino, più volte lui è riuscito a farla franca, forte di un consenso grandissimo in una terra dove mafia e massoneria si confondono e dove il suo nome si allunga su gran parte dell'economia locale. Più di tutti ha inseguito infatti gli affari Matteo Messina Denaro, 51 anni, 20 dei quali passati in fuga. Ma ora, dopo ripetute inchieste che hanno catturato pure i suoi familiari e dopo una sfilza di confische per milioni, ora il suo regno è in crisi. Se è vero che l'ultima traccia del boss, che non rinuncia alle comodità e al lusso, come abbiamo sentito nella prima parte di A Ciascuno il Suo, è una richiesta urgente di 8.000 euro. Ma il consenso su cui può contare è ancora fortissimo, avverte Teresa Principato, il procuratore aggiunto della DDA di Palermo, che coordina la caccia all'ultimo padrino. L'ultima acquisizione è una richiesta da parte di Matteo di 8.000 euro. Dovevano evidentemente servire per una sua impellente necessità. Ci fanno ritenere come il latitante, dopo tutti i sequestri, le confische subite dall'organizzazione negli ultimi 2 anni per almeno 2 miliardi, si trovi in qualche difficoltà economica. In che modo comunica? Se stile alla Provenzano, quindi i famosi sì, pizzini? Sì, lui comunica solo attraverso pizzini. Quindi pizzini scritti con pizzini codici? Che vengono inviati con cadenze temporali precise e vengono distribuiti ai destinatari, e poi dopo precise cadenze temporali le risposte, sempre mezzo pizzini, vengono ritirati dai sodali e vengono smistate. Portate, sì. Sempre molto presenti, anche facendo sentire il suo fiato, diciamo, su tutti quanti gli altri in Sicilia. Altri latitanti avevano figure di vario tipo, da forze dell'ordine a uomini che facevano arrivare soffiate di vario genere. Anche voi in passato più volte siete stati vicini alla cattura. Questo è possibile che lui abbia avuto, non possiamo certo controllare tutto, abbiamo avuto modo di di controllare anche questo tipo di possibilità. Evidentemente, se ancora non siamo arrivati a a contestare reati di questo genere vuol dire che le investigazioni che abbiamo effettuato non ci hanno portato a individuazioni serie. Un boss in perenne fuga che continua però a viaggiare, ad incontrare tante donne e ad intrattenere pure misteriose corrispondenze in codice. Lui era Alessio, l'altro Svetonio in queste lettere, e all'epoca avevamo raggiunto il suo corrispondente. Una sorta di confessore e non di confidente, perché con me ha intrattenuto davvero rapporti epistolari basati soltanto su discussioni filosofiche e religiose, il bisogno della fede che lui dice di non avere. Un disperato, chi si ritrova in queste condizioni ritenendo di gestire chissà quale potere, finisce con l'essere nel fango e a non respirare nemmeno, perché è privo di qualunque cosa, perché il bisogno che almeno ha scritto di poter vivere una vita che fosse quanto più vicina alla norma, anche con una creatura che ha messo al mondo e che ha scritto di non avere mai visto, per esempio, avendone un dolore lancinante in questo senso, non può che dare la misura di quanto sia pervaso da disperazione. Probabilmente è quello che sostenevo qualche tempo addietro, diventerebbe una vita normale la sua se solo decidesse e si ricostituisse. Ecco le tante facce dell'ultimo padrino ancora in libertà, che è riuscito a sfuggire per 20 anni alla cattura anche grazie al consenso del territorio e agli aiuti di talpe di ogni genere, come sempre è successo in tutte le inchieste che hanno portato all'arresto di boss eccellenti, lo ricorda dalla Direzione Nazionale Antimafia Maurizio De Lucia. Ma in questa latitanza una responsabilità sta pure nelle tensioni che si sono create tra i vari apparati dello Stato? Le regole di Cosa Nostra impongono in questo momento di riconoscere come capo ancora Salvatore Riina, ma quello naturalmente è il capo formale chiuso in carcere con serissime difficoltà nel comunicare all'esterno. Il futuro capo reale dell'organizzazione, secondo le regole dell'organizzazione, dovrà essere comunque un palermitano. E quindi non Matteo Messina Denaro, che però è sicuramente una delle persone più influenti, erede sicuramente anche di molti segreti della Cosa Nostra di Riina e quindi della Cosa Nostra dei Corleonesi. Solo pochi giorni fa anche Brusca, deponendo al processo sulla trattativa Stato-Mafia, ricordava come Messina Denaro sia anche lui a conoscenza di alcuni di quelle tessere mancanti di quei drammatici mesi del 92. Partecipe ad alcuna delle stragi, quelle del 93 in Sicilia e in Italia sicuramente, ma ci sono indagini anche in relazione alla sua partecipazione alle stragi siciliane del 92. Non è soltanto una persona informata, è uno degli autori che ha vissuto e programmato quella stagione stragista, su questo non c'è alcun dubbio, e quando dico che non può essere il capo non voglio sminuirne il ruolo. Il ruolo di Matteo Messina Denaro è importantissimo, in questo momento è l'ultimo corleonese autorevole in libertà, ha una capacità carismatica capace di influenzare non solo la sua provincia, la provincia di Trapani, di cui comunque è il capo, ma l'intera organizzazione mafiosa. La potenza, il ruolo, la figura di Matteo Messina Denaro in questi anni, come è cresciuta? Privilegiando per una lunga stagione il mondo degli affari. Il suo nome era venuto fuori anche nell'inchiesta su Nicastri, il re dell'eolico, il re del vento, quindi sono stati i soldi che hanno, diciamo, anche incrementato la sua potenza all'interno di Cosa Nostra, insieme a questo rapporto stretto con i corleonesi di Totò Riina. Le due cose camminano insieme, cresce, come dire, l'autorevolezza all'interno dell'organizzazione, cresce la capacità di essere autorevoli fuori dall'organizzazione. Ma in tutti i settori dell'economia siciliana è possibile intravedere, molte indagini lo dimostrano, penso esempio anche al settore della grande distribuzione, la presenza attiva di Matteo Messina Denaro e dei suoi uomini. È ipotizzabile che anche dietro questa lunga latitanza di Matteo Messina Denaro ci siano anni di copertura ad ogni livello? Una latitanza così lunga richiede un'assistenza che va oltre il vivandiere che porta il cibo o procura l'alloggio al latitante. Una latitanza di questo tipo ha bisogno anche di una serie di informazioni che vengono dall'interno delle istituzioni. E infatti, dopo le varie inchieste che hanno portato alla cattura dei latitanti, ci sono sempre state poi le inchieste sulle talpe. Qualche volta ci sono state prima. Più volte si arriva vicino alla cattura del latitante e poi non si sa come riesce sempre a farla franca. Comunque è possibile dire che quest'ultima inchiesta aumenta la terra bruciata intorno al boss, che è più solo e quindi in qualche modo anche più debole? Non c'è dubbio. Ogni volta che si colpisce la rete dei soggetti vicini a un grande latitante, si indebolisce quel latitante. È un modello che dimostra peraltro il funzionamento dello Stato, perché anche in questo caso hanno agito in sinergia tutte le forze di polizia coordinate dalla Direzione del Settore Antimafia di Palermo. Un'operazione a cui hanno collaborato tutte le varie forze, non senza momenti, diciamo, di anche tensione tra le varie forze che in questi anni hanno lavorato e stanno lavorando intorno alla cattura di Matteo Messina Denaro. Sì, però l'ultima indagine rivela proprio come è stata correttamente coordinata un'attività assai complessa. Alcune cose sono forse nella fisiologia di indagini così complesse, non c'è dubbio che in questo momento quello che balza agli occhi è un risultato positivo per lo Stato. Per riascoltare tutte le puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.